Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il cambiare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 844 e parleremo di sperimentazione scientifica senza animali, della difficile vita dei lupi, di razzismo canino e di un singolare incontro fra una donna e una lepre. La ricetta della settimana e la colonna sonora della puntata sono entrambe a cura di Gabriele Palloni. Sperimentazione scientifica sugli animali è uno dei temi storici della lotta animalista e anche uno dei più controversi, o almeno dei più dibattuti, perché mette in parallelo, quasi in competizione, il valore della vita umana e il valore delle vite degli altri animali. La sperimentazione scientifica sugli animali, alla fine dei conti, è giustificata con la maggiore importanza della vita umana. Un'importanza così preponderante da giustificare, agli occhi della maggioranza dei ricercatori, forse della popolazione, la sofferenza, la tortura, il sacrificio di animali non umani per testare farmaci, tecniche di intervento e altro ancora. È una visione contestata sia sul piano etico, come espressione di un suprematismo umano inaccettabile, sia su quello scientifico, con obiezioni sulla reale utilità ed efficacia di queste sperimentazioni. Negli ultimi anni, ma con importanti accelerazioni negli ultimi mesi, si stanno moltiplicando le notizie riguardanti questo ambito, per via del rapido incremento degli strumenti di conoscenza digitale, a cominciare dall'intelligenza artificiale, che hanno quindi incrementato le alternative possibili alla sperimentazione sugli animali, e perché non cessa ed anzi si intensifica l'attivismo a tutela degli animali. L'ultima volta che ne abbiamo parlato è stato per la sospensione decisa dal TAR del Lazio, della sperimentazione sui cani Beagle operata dall'azienda Aptuit di Verona. Un piccolo paradosso in questa vicenda è che nemmeno lo sviluppo delle tecnologie digitali sembra scuotere più di tanto il mondo dei ricercatori, che pure, con il loro continuo richiamo alla supremazia della scienza, dovrebbero essere attentissimi ai progressi fatti nel mondo digitale e favorirli, non solo per un generale consenso al progredire della scienza e della conoscenza, ma anche per superare la vecchia, terribile pratica della sperimentazione sugli animali, che anche gli scienziati e le istituzioni riconoscono essere problematica, al punto che è prevista una particolare forma di obiezione di coscienza per studenti e ricercatori che si rifiutino di condurre esperimenti su vite senzienti. D'altronde sappiamo che in questo ambito hanno un grande peso non solo i valori morali, ma anche gli interessi economici e gli equilibri di potere che ogni modello di ricerca porta con sé. Cambiare le tecniche, aprire nuovi filoni di studio è comunque un piccolo terremoto, che non lascia mai le cose come stanno. Oggi vi proponiamo un approfondimento su questo tema a partire da due notizie. Una riguarda gli Stati Uniti, dove la Food and Drug Administration ha annunciato la pubblicazione di una bozza di linee guida per l'industria, intitolata Considerazioni generali per l'uso delle nuove metodologie di approccio nello sviluppo dei farmaci. Si tratta di raccomandazioni generali di metodologie senza l'uso di animali, in modo che sia possibile superare il vincolo e la dipendenza dal modello animale, rivolgendosi ad approcci sicuri, human-based e innovativi. Questo nuovo approccio comprende un'ampia gamma di metodi, come gli studi in vitro complessi 2D e 3D, l'utilizzo di algoritmi e dell'intelligenza artificiale, e anche speciali reazioni chimiche. Secondo l'AV, queste nuove linee guida della Food and Drug Administration sono un segnale importante che rafforza quanto già è in atto a livello mondiale, cioè il superamento del modello animale per la sicurezza e l'evoluzione della scienza per l'uomo. Un'altra notizia di tenore simile riguarda l'Europa, con l'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, che apre un nuovo metodo per la ricerca preclinica, prevedendo di sostituire i gruppi di controllo standard composti da animali di confronto con gruppi di controllo virtuali, cioè delle cavie virtuali, come sono state definite. Qui in verità ci sarebbe da aprire una parentesi linguistica sull'uso metaforico del termine cavia, inteso come chi viene sottoposto a esperimenti di laboratorio, a partire dalla cavia intesa come un animale, originariamente il cavia porcellus, noto anche come porcellino d'India, per quanto si tratti di un animale che non è né un porco né indiano. Comunque sia, la nuova strategia consentirebbe di diminuire il numero complessivo di ratti utilizzati in specifici studi di determinazione dell'intervallo di dosaggio. Su questo nuovo approccio è stata pubblicata una bozza di parere, predisposta dal Comitato per i Medicinali a Uso Umano. E ora l'ente regolatorio UE ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere il contributo della comunità scientifica e delle parti interessate. La raccolta dei commenti resterà aperta fino al 12 maggio, dopodiché si potrà procedere con l'implementazione di questo nuovo metodo. Non stiamo parlando, sia chiaro, della rinuncia alla sperimentazione animale. Piuttosto, come spiega EMA, la riduzione della sperimentazione animale sarà graduale, grazie a un approccio che potrebbe essere usato in futuro in studi tossicologici in cui sono richiesti di routine gruppi di controllo. In sostanza, dunque, si arriverebbe a una riduzione del numero degli animali utilizzati, perché una parte di loro sarebbe sostituita da animali virtuali, in grado di riprodurne le reazioni e i comportamenti. E comunque anche questo è un passo avanti verso metodi di ricerca più moderni e non violenti. Abbiamo chiesto a Michela Kuan, responsabile dell'area ricerca senza animali della LAV, Lega Anti-Vivisezione, di aiutarci a capire che cosa sta accadendo, che peso dare a queste notizie. Queste ultime settimane rappresentano un passo in avanti e uno indietro per la ricerca e per gli animali. Infatti, se da una parte il processo storico contro la nota multinazionale farmaceutica Aptuit ha visto il 10 marzo la sospensione dei progetti sui cani di telemetria, esperimenti estremamente invasivi che comportano sonde impiantate chirurgicamente, elettrodi, cateteri all'interno del corpo, operazioni chirurgiche, quindi vere e proprie vivisezioni. Dall'altra parte, il governo italiano ha scelto di togliere per sempre il divieto che avevamo ottenuto, che abbiamo difeso per moltissimi anni, di bandire per sempre l'utilizzo degli animali per i test per le sostanze d'abuso come alcol, droghe, tabacco e gli xenotrapianti, cioè trapianti di organi tra specie. Infatti, nonostante la maggior parte dei cittadini non lo sappia, ancora il fumo, che è ovviamente una sostanza i cui effetti dannosi sull'uomo sono ben noti da decenni, continuano a essere testate sugli animali, con esperimenti estremamente invasivi. Pensiamo alle sostanze psicotrope, dove gli animali hanno appunto delle allucinazioni. E ricordiamoci che questi modelli sono estremamente fallimentari. In oltre il 95% dei casi il modello animale non è attendibile, anzi è fuorviante per l'essere umano. Proprio nel campo del tabacco, per decenni le industrie del tabacco hanno vinto le cause in tribunale perché il modello animale non rispondeva come l'uomo, cioè gli animali non si ammalavano di tumore ai polmoni, diventando quindi la vivisezione anche un paramento giuridico. Purtroppo questo passo indietro ricorda e ci ricorda un paese che continua a voler rimanere nel medioevo scientifico. E nonostante l'Europa e anzi a livello mondiale ci siano degli enormi investimenti dei modelli alternativi, tecniche in vitro, organo a chip, intelligenza artificiale, NAMS, cioè Non Animal Methods o New Approach Methodologies, quindi proprio il superamento del modello animale dal punto di vista scientifico come necessità della ricerca di trovare dei modelli realmente predittivi e utili per l'uomo, con investimenti altissimi da parte dell'Olanda, del Belgio, dell'Inghilterra, della Spagna, della Germania. L'Italia sceglie di appoggiare la sperimentazione animale, ancorandosi a un modello della fine dell'Ottocento, e sceglie di non investire nei modelli alternativi, nonostante questi siano una priorità assoluta voluta dalla legge. Infatti, la direttiva europea vede come totalmente prioritari i modelli di ricerca senza animali. L'Italia, però, al momento ha pari a zero investimenti per questi modelli di ricerca, lasciando appunto il nostro paese in un gap culturale gravissimo e oltretutto andando contro la volontà dei cittadini italiani sempre più contrari alla vivisezione. Lav per questo, e invito tutti ad andare sul nostro sito www.lav.it, ha aperto una petizione rivolta al governo, al Parlamento e alle regioni per chiedere dei fondi per una ricerca senza animali, l'unica ricerca veramente attendibile, giusta, etica e soprattutto utile per l'uomo e per l'intero pianeta. Torniamo a parlare di lupi, uno degli spauracchi, insieme agli orsi, di quegli imprenditori politici della paura che hanno esteso agli animali selvatici le stesse logiche della cosiddetta emergenza sicurezza, con l'ingigantimento di notizie di cronaca, fino a descrivere pericoli incombenti e diffusi in realtà inesistenti, ma sufficienti a favorire e giustificare la strategia della repressione violenta, della politica dell'uomo o della donna forte. Per la cosiddetta emergenza lupi si è cominciato a parlare anche di abbattimenti selettivi, resi possibili dall'indebolimento della protezione deciso a livello europeo. E ora c'è anche un'apertura all'uso dei proiettili di gomma, delle armi quindi non letali. La richiesta di un parere in merito è arrivata all'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dalla regione Valle d'Aosta. E ISPRA ha espresso un giudizio positivo, ma avvertendo che l'uso dei proiettili di gomma è un metodo di difficile applicazione. Lo ha spiegato Paolo Genovesi, responsabile fauna selvatica di ISPRA. Siamo favorevoli all'utilizzo dei proiettili di gomma, ha detto, ma l'efficacia è molto limitata. E tuttavia non c'è motivo per non tentare. In alcuni casi può funzionare. Genovesi, nel suo intervento, ha rimarcato l'impegno di ISPRA nel dialogo con diversi soggetti, dalle guide alpine del CAI fino al mondo venatorio, con l'obiettivo di chiarire aspetti scientifici e normativi riguardanti i lupi, spesso oggetto di confusione. Genovesi ha anche ricordato di avere organizzato come ISPRA dei corsi con Federcaccia per migliorare la conoscenza del comportamento del lupo e favorire una gestione più informata dei casi problematici, per esempio quello di animali confidenti in aree urbane. Quanto alla riduzione del livello di tutela del lupo, secondo Genovesi ciò non significa doppietta libera. Eventuali cambiamenti normativi, ha detto, non implicano automaticamente l'apertura alla caccia, a differenza di quanto discusso in altri paesi europei. Resta però il fatto che il rapporto fra comunità umane e lupi è tuttora concepito prevalentemente in termini di confronto violento, i fucili, i proiettili di gomma, mentre resta in secondo piano la necessità di un'analisi allargata delle dinamiche in corso nei territori di montagna, secondo una visione che vada oltre il solito distruttivo egoismo di specie. Siamo soliti evitare, arrestiamo animali, le notizie di cronaca nera riguardanti gli animali, perché sarebbero troppe e troppo tetre e perché finirebbero per impedirci di ragionare con spirito critico e aperto sulla condizione animale nella società contemporanea. Vogliamo oggi però riportare la notizia di un sequestro di decine di cani, in particolare barboncini, allevati e trasportati abusivamente. Lo facciamo perché nel riportare la notizia dei sequestri avvenute in varie zone d'Italia, dal Veneto alla Toscana alla Campania, le stesse agenzie di stampa hanno ripreso una notazione dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, secondo la quale il fenomeno è alimentato da una domanda sempre più forte di cani di razza, spesso scelte per comodità o per moda. I barboncini, in particolare, sono fra i più richiesti per la taglia piccola e perché non perdono pelo. Ecco dunque, dentro la cronaca nera, un fenomeno sociale, più che semplicemente criminale. La preferenza per una certa razza di cane per ragioni estetiche o pratiche, o perché le mode così comandano, senza accogliere ciò che tali scelte nascondono. La riduzione degli animali a oggetti, la pratica ingiusta e infine barbara della selezione razziale, che viene pagata dagli animali con le malattie, le malformazioni, le sofferenze, a volte per tutta la vita, che la riproduzione fra consanguinei porta con sé. Come ogni settimana, Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore fra gli altri del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci regala una ricetta rigorosamente non violenta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per festeggiare la Pasqua vi suggeriamo una ricetta tipica marchigiana dal gusto dolce salato in una versione senza crudeltà. I calcioni marchigiani. Gli ingredienti per 4 persone sono, per il ripieno, 200 g di tofu, 50 g di grattugiato vegetale, 25 g di zucchero, un cucchiaino di curcuma in polvere e la scorza grattugiata di mezzo limone. Per la sfoglia, 100 g di farina di semola, 40 g di farina forte tipo manitoba, 20 g di farina di ceci, 80 ml di acqua, 20 g di zucchero, la scorza grattugiata di mezzo limone, un pizzico di curcuma in polvere, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Infine occorre un'emulsione di 50 ml di acqua, un cucchiaio di olio e un pizzico di curcuma. Iniziate preparando il ripieno. Tritate il tofu e mescolatelo assieme al grattugiato vegetale, la curcuma, lo zucchero e la scorza di limone. Amalgamate bene tutti gli ingredienti e fate riposare l'impasto per 24 ore. Il giorno successivo preparate la sfoglia. Unite i tre tipi di farina e impastate con acqua, la scorza di limone, la curcuma, l'olio, un pizzico di sale e lo zucchero. Lavorate fino ad ottenere una pasta liscia che farete riposare avvolta nella pellicola per mezz'ora. Recuperate la sfoglia e stendetela ad uno spessore di 3 mm. Formate dei ravioli facendoli con una pallina del ripieno preparato in precedenza e tagliateli con un tagliapasta dando una forma quadrata e sigillando bene i bordi. Spennellate ogni calcione con un'emulsione di acqua, olio e curcuma, quindi praticate un taglio a croce con le forbici sulla sommità di ognuno per permettere la caratteristica fuoriuscita dell'impasto durante la cottura. Infornate a 180 gradi per circa 30 minuti e servite. Chiudiamo con una segnalazione letteraria. Il libro di Chloe Dalton, Io e la lepre, appena uscito per l'editore Neri Pozza. Non è un romanzo, ma quasi un diario. Il racconto del rapporto intessuto dall'autrice con un leprotto, anzi una leprotta, trovata appena nata nelle campagne inglesi durante il lockdown per la pandemia da Covid-19. Chloe prese la leprotta con sé, dopo un momento di esitazione, si era chiesta se per caso la madre non lo stesse invece accudendo, e con l'intento, evidentemente, di salvarlo. Se ne prese cura, scoprendo rapidamente di dover imparare da sola come fare, perché nessuno in verità conosce le lepri, le loro abitudini, le loro esigenze. Nessun veterinario sapeva dargli dei consigli utili. E le lepri, nella cultura popolare britannica, sono associate alla stregoneria e quindi verso di loro esiste tradizionalmente una grande diffidenza, una grande distanza. Chloe comunque si comportò con spirito di soccorso e di solidarietà interspecifica, finché la leprotta, alla quale non ha mai voluto dare un nome per non umanizzarla, non è cresciuta e ha cominciato a vivere un'esistenza sdoppiata, libera di andare insieme ai suoi simili, ma anche di tornare a casa. Per Chloe Dalton la relazione con la leprotta è stata una lezione di vita, ma anche di politica. Per lei, che è un'esperta di relazioni internazionali, con un passato da consulente del Parlamento britannico. In un'intervista uscita sulla stampa, quando l'intervistatrice Simonetta Shandibashi le chiede se Io e la lepre sia un romanzo antispecista, Chloe Dalton risponde così: «Una delle cose più belle della nostra natura è che proviamo a trascendere i nostri limiti. Quando vediamo un animale selvatico, o un animale in generale, una parte di noi vorrebbe poter oltrepassare il confine fra noi e lui, per poterlo comprendere meglio. Solo che, da questo, si sono prodotte degenerazioni e usurpazioni, perché nasciamo in una cornice che ci convince di essere il punto di riferimento più importante per la vita del mondo. La sfida adesso, sia per l'individuo sia per i governi, è tentare di bilanciare meglio i bisogni umani con quelli della natura e degli animali, visto che siamo dipendenti gli uni dagli altri, tenendo bene a mente che gli animali hanno diritto di esistere a prescindere da noi e senza di noi. Chloe Dalton, Io e la lepre, Neri Pozza Editore. Thank you.